giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Marino resiste, il sindaco di Roma sarebbe intenzionato a non dimettersi per poter fare un discorso in consiglio comunale. In corso invece la riunione della giunta. È stato scarcerato Tuil, il cittadino marocchino arrestato in Italia, accusato per gli attentati di Tunisi. Di pochi istanti fa la notizia che la procura ha chiesto l'archiviazione per la sua posizione. Continua a salire la fiducia dei consumatori ai massimi dal 2002, delle imprese al top dal 2007, nuova asta di titoli di Stato, i bot a 6 mesi con rendimenti negativi. L'ex ministro greco Varoufakis pubblica i compensi per le conferenze, quasi tutte gratis, 1000 euro al minuto invece per l'intervista A che tempo che fa di Fabio Fazio. Blitz della polizia turca per chiudere una TV schierata contro il premier Erdogan, scontri lacrimogeni e giornalisti picchiati. E tra poco il nostro racconto dalla capitale del Kurdistan turco. Volkswagen conti in rosso per la prima volta da 15 anni, a pesare gli accantonamenti per fronteggiare lo scandalo emissioni. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Questi erano i nostri titoli e in apertura dunque la riunione della Giunta di Roma, una giunta nella quale il sindaco Marino potrebbe fare annunci importanti. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, così a Roma l'attesa è tutta concentrata sulle prossime mosse politiche di Ignazio Marino, che stando ai retroscena raccontati oggi da diversi quotidiani potrebbe ritirare le sue dimissioni. Nel frattempo, lo dicevi, in Campidoglio è iniziata questa riunione della giunta, riunione che potrebbe decidere di pedolanizzare integralmente i fori imperiali, un progetto sappiamo molto caro al primo cittadino che, entrando a Palazzo Senatorio stamattina, si è limitato a dire che verranno prese decisioni importanti, ma sentiamo proprio le sue parole. Oggi abbiamo una giunta molto molto importante, densa di decisioni. Appena la giunta sarà finita vi comunicheremo. Buon lavoro a tutti. Marino, lo ricordiamo, lo abbiamo detto molte volte in questi giorni, ha tempo fino al 2 novembre per decidere se confermare o meno le sue dimissioni. Il PD considera comunque conclusa la sua esperienza e in caso di un ripensamento i consiglieri comunali democratici sarebbero pronti a dimettersi in blocco oppure a presentare una mozione di sfiducia. Secondo Alessandra Cattoi è assessore al patrimonio che gli è molto vicina, Marino sarebbe tentato dal ritirare le dimissioni per chiedere un chiarimento politico proprio davanti al Consiglio Comunale. Sentiamo cosa ha detto Cattoia a 24 mattino, poi la linea può tornare allo studio. Simone. Questo è quello che è tentato di fare il sindaco, di ritirare le dimissioni, non perché pensi che si risolve così per una parlare politica, in Consiglio Comunale, ma perché in Consiglio Comunale, che è la sede democratica. Così dunque anche la Cattoi, grazie al nostro Andrea Viali per questi aggiornamenti, torneremo a sentirlo più avanti nel corso della trasmissione per sentire se altri aggiornamenti ci saranno dalla giunta comunale che è in corso in questi minuti. Apriamo adesso un'ampia pagina economica iniziando dai dati sulla fiducia dei consumatori e delle imprese che toccano nuovi massimi. Vola a livelli pre-crisi e non arresta la sua crescita neanche ottobre, l'indice del clima di fiducia dei consumatori e delle imprese. L'orizzonte positivo sul fronte dei consumatori ad ottobre è il più alto da febbraio 2002. Secondo quanto registra l'Istat non era così da oltre 13 anni e da un mese all'altro sale ancora a 116,9 punti dai 113 di settembre perché, spiega l'Istituto di Statistica, migliorano i giudizi e le attese sulla situazione economica del paese più che quelli sulla situazione personale dei consumatori, mentre calano le attese di disoccupazione. Sul fronte delle imprese, livelli ancora ai massimi per il terzo mese consecutivo e con un record. È l'indice più alto dall'inizio della crisi, e cioè da ottobre 2007. Ed è boom per il settore del commercio, che tocca il tetto più alto dall'inizio delle serie storiche, da gennaio 2003. Cresce infatti il clima di fiducia dei servizi di mercato, quello della manifattura e quello del commercio, appunto, soprattutto al dettaglio, ma scende quello delle costruzioni, in cui peggiorano le attese su ordini e piani di costruzione per il futuro. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questo tra l'altro torneremo a parlare più avanti, sentiremo un responsabile dell'Istat che si occupa proprio di queste statistiche per cercare di capire in particolare da cosa dipenda questa crescita, quali siano i fattori e che cosa ci si aspetta per i prossimi mesi. Restiamo sull'economia e passiamo a parlare di Volkswagen. Abbiamo il giorno dei risultati diffusi, la prima trimestrale dall'inizio dello scandalo emissioni. Non bisognerà aspettare la fine dell'anno per capire l'impatto del Dieselgate sui conti del colosso tedesco. La fotografia dei primi 9 mesi infatti è piuttosto chiara. Un utile operativo in calo del 65% a 3,3 miliardi di euro e profitti più che dimezzati rispetto a un anno fa. Senza contare che nel trimestre Volkswagen segna il primo rosso dopo oltre 15 anni con una perdita operativa di 3,5 miliardi di euro. A pesare ovviamente sono gli accantonamenti, 6,7 miliardi calcolati per far fronte ai costi legati allo scandalo emissioni. E se la casa madre avverte i risultati 2015 saranno significativamente inferiori al 2014, Porsche già stima 2 miliardi di utili in meno. Nessuno però conosce ancora gli importi. Certo è che situazioni simili in futuro dovranno essere evitate. Per questo Bruxelles ha proposto un giro di vite sui test inquinanti che dovranno essere realizzati su strada e non più in laboratorio, con una soglia di tolleranza 60% fino al 2019, concede la Commissione. Il voto però si preannuncia difficile, i paesi sono divisi, la maggior parte, Italia compresa, è contraria. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo sull'economia e sull'economia italiana. Oggi è la giornata del risparmio, una giornata nella quale tradizionalmente intervengono il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e il ministro dell'economia, in questo caso Piercarlo Padoan. E ci sono segnali positivi che arrivano anche appunto dalle stime della Banca d'Italia. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Il primo giorno è così, giornata mondiale del risparmio, con al centro le problematiche del settore bancario e la vitalità del sistema creditizio, e di questo si è parlato, Simone, ma dal governatore della Banca d'Italia è arrivata la consueta fotografia sull'andamento dell'economia mondiale e del nostro paese. Partiamo allora da quest'ultima con il governatore Visco, che conferma la prosecuzione della ripresa nel terzo trimestre. Sentiamo le sue parole. Le indagini presso le imprese confermano un crescente ottimismo sull'andamento della domanda, che incoraggia la propensione a investire. Il significativo aumento dell'occupazione, che ha beneficiato anche dei provvedimenti adottati dal governo, continuerà a sostenere i consumi delle famiglie. La crescita dell'attività nel 2015 potrebbe superare quella indicata nelle nostre proiezioni di luglio, sfiorando l'1%. Nell'area dell'euro e in Italia pesano tuttavia in prospettiva i rischi connessi con il rallentamento dell'economia cinese e più in generale con l'andamento dei paesi emergenti. Replica quindi di Visco, del governatore, alle recenti critiche ricevute sulla vigilanza: vi è doveroso rispetto per la magistratura, ha detto, ma l'operato della Banca d'Italia è stato legittimo. Intervento poi del ministro dell'economia Padoan, che si è soffermato sulla legge di stabilità, rivendicando le linee portanti a partire dal taglio delle tasse per l'occupazione. Si proroga il bonus assunzione, ha detto Padoan, le imprese ne approfittino, la riduzione della pressione fiscale proseguirà, ha garantito poi lo stesso ministro. Ascoltiamo. Questa legge di stabilità ha un segno fondamentale nell'abbattimento delle tasse, politica di abbattimento delle tasse che comincia dall'inizio della vita di questo governo e continuerà per gli anni a venire, considerando di volta in volta abbattimenti di tasse diversi, ma che vanno visti nella loro interezza. Messaggio poi del Presidente della Repubblica Mattarella: trasparenza, correttezza ed etica degli intermediari finanziari devono essere affermati per salvaguardare la fiducia, elemento essenziale per il sistema creditizio. Infine il Presidente dell'ABI Patuelli, che avverte il bail-in, ovvero le perdite a carico degli obbligazionisti non protetti e i depositanti sopra i 100.000 euro delle banche, introdotto dalle norme europee, sarà l'eccezione estrema, non certamente la regola. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E altra notizia di oggi è quella che vi accennavamo nei titoli, ossia che per la prima volta nell'asta dei bot a 6 mesi i tassi sono scesi sotto zero. Il Tesoro ha venduto tutti 6 miliardi di euro in offerta, con un rendimento medio in calo a meno 0,055% da più 0,023% di settembre. Abbiamo parlato molto in questi mesi di crisi europea e spesso avete visto apparire anche nelle TV italiane Yanis Varoufakis. Varoufakis, l'ex ministro delle finanze greco. Quanto guadagna dalle conferenze che sta facendo dal momento nel quale ha smesso di essere ministro delle finanze del governo di Alexis Tsipras? Molto poco, fatte un paio di eccezioni, di cui una è italiana. Beh, tre parole. French, francese, German, tedeschi, banks, banche. Un'intervista avvenuta a pochi mesi dalle dimissioni. Lo scenario è quello degli studi di Che Tempo Che Fa, la trasmissione di Fabio Fazio. L'ospite è l'ex ministro delle finanze del governo greco, Yanis Varoufakis. Nulla di male se non fosse che l'ingaggio è stato di 24.000 euro e volo in prima classe. Tutto nasce dalle accuse del Daily Telegraph, che aveva pubblicato una sorta di tariffario con le spese di Varoufakis. Per un intervento fuori dall'Europa si parla di 500.000 euro e per una conferenza nell'Unione Europea di oltre 4.000 euro. Varoufakis ha però risposto alle critiche con un lungo post per dimostrare la sua trasparenza, pubblicando una lista di tutti gli interventi fatti all'estero, le modalità di viaggio e i compensi ricevuti. La Biennale di Mosca, ad esempio, ha offerto un contributo di 1.000 euro e un biglietto in economy. Berlino, 500 euro per un evento e il sindaco di Barcellona, 1.700 per un convegno. Sono due gli appuntamenti che hanno fatto lievitare il cachet. Una conferenza internazionale di un gruppo di private equity a Singapore, che è costata 28.000 euro, e l'intervista dello scorso 27 settembre su Rai 3, per cui l'ingaggio di Varoufakis è stato in pratica di 1.000 euro al minuto. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso ci spostiamo in Turchia, dove, come sentivate dai titoli, la polizia ha attaccato la sede di una TV che si oppone ad Erdogan. In diretta da Istanbul e dalla piazza, dove a quanto pare si sta raccogliendo gente, rischiano di esserci nuove tensioni, c'è Marco Barbonaglia. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, sono qui di fronte alla sede del Cosa IPEC Holding, che è stata questa mattina attaccata dalla polizia, che doveva insediare l'amministrazione controllata, quindi i nuovi dirigenti. E in questo momento c'è moltissima gente che si è raccolta, c'è tutto il popolo di Fethullah Gülen in piazza, ci sono stati diversi giornalisti che hanno parlato alla folla proprio poco fa. Sta arrivando sempre più polizia, vedo in questo momento, anche se la situazione è ancora abbastanza tranquilla, per fortuna. È la stessa cosa comunque che è stata fatta ieri ad Ankara, lo stesso gruppo televisivo che fa sempre capo a Fethullah Gülen, un tempo alleato di Erdogan e oggi suo nemico giurato. Ricordiamo, Fethullah Gülen è uno degli uomini capo di questa potentissima confraternita islamica, oggi vive negli Stati Uniti, in Pennsylvania, ormai dal 1999, e ha aiutato Erdogan a prendere il potere, ma lo scontro che si è poi consumato tra i due ha portato inevitabilmente ha un capovolgimento, quindi per gli stessi motivi per i quali era un alleato prezioso, improvvisamente Fethullah Gülen è diventato un nemico molto pericoloso per Erdogan, accusato di coltivare un potere parallelo allo Stato. Marco, questo non è il primo attacco alla stampa che viene effettuato dal governo turco? In questi giorni specialmente, quindi a ridosso delle elezioni, si sono moltiplicati. Sono moltiplicati diversi episodi che tutti insieme formano un mosaico piuttosto inquietante. Per esempio, anche se non è una notizia di questi giorni, questa oggi nella sede Gülen, Kanal Türk, insomma Cosa IPEC Holding, dove sono, c'era anche Can Dündar, che è direttore del principale, uno dei principali giornali laici del paese, che sta fronteggiando un'accusa di ergastolo. Però nei giorni scorsi è stato arrestato uno scrittore, per esempio, perché ha offeso sia Atatürk che Erdogan. I giornali in questo momento uno dei dubbi che aleggiano è che il prossimo gruppo che potrebbe essere attaccato è il gruppo Doğan, l'altro grande gruppo che ha il principale quotidiano, per esempio, del paese, Hürriyet. Quindi la situazione per quanto riguarda la stampa è molto critica in questo momento in Turchia. Ti ringrazio, grazie a Marco Barbonaglia, e se ci saranno aggiornamenti dalla piazza ovviamente potrai darceli, e poi più avanti nel corso della trasmissione ci collegheremo invece con Alberto Negri del Sole 24 Ore, che si trova a Diyarbakir, che è la capitale del Kurdistan turco, per avere un quadro anche da là. Prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade, c'è uno spazio dedicato all'iniziativa lanciata da Radio 24, Anche Noi Disabili. Anche Noi Disabili. È un'iniziativa, ve lo ricordo, avete sentito i promo, ve l'ha raccontata anche Gianluca Nicoletti, con la quale vogliamo raccogliere storie, racconti e informazioni sul mondo della disabilità, sui disagi, sui problemi che vivono i milioni di persone che ogni giorno devono affrontare un paese che anche nelle sue strutture è spesso poco accogliente. Vogliamo raccogliere queste storie, quindi scriveteci a anchenoidisabili@radio24.it. Oggi non è una storia ma un dato generale, parliamo di occupazione perché la crisi ha spinto la disoccupazione anche per le cosiddette categorie protette. Sono 750.000 disabili senza lavoro, la crisi ha potenziato l'esclusione, dice Nina Daita, che è responsabile nazionale politiche per la disabilità della CGIL, CGIL che su questo oggi ha presentato un rapporto, l'ha intervistata Cristina Carpinelli. Intanto esiste un pregiudizio di tipo culturale, tu puoi avere anche 3 lauree e parlare 8 lingue, ma siccome sei disabile sono... E poi in Italia il problema dell'occupazione dei disabili, come delle persone cosiddette normodotate, è un problema gravissimo. Certamente abbiamo conosciuto anni in cui, soprattutto nei primi anni 90, anche metà anni 90, in cui i disabili insomma venivano collocati nel mondo del lavoro. Adesso con la crisi, 752.000 iscritti, naturalmente la maggior parte sono donne, secondo me sarebbe opportuno un piano straordinario. Perché questi 752.000 iscritti ancora non hanno una collocazione? Non hanno lavoro, no. Ecco, questa cosa di cui lei parla, no? Questa crisi anche nell'occupazione delle persone con disabilità, diceva che negli anni 90 invece non c'era. Mi pare nel 2005-2006, in un anno sono stati inseriti 44.000 disabili con contratto a tempo determinato nel mondo del lavoro, sono tanti. Oggi il problema è la crisi economica in atto, che vale per tutti e vale anche per noi. Abbiamo costruito un cammino per, appunto, per liberarci dagli istituti, dai ghetti e dalle discriminazioni e oggi purtroppo stanno tornando. Comunque le crisi economiche non possono sempre pagarle più deboli. Così dunque abbiamo Nina Daita, responsabile nazionale politiche per la disabilità della CGIL. Vi ricordo ancora una volta la mail anchenoidisabili@radio24.it. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, ci troviamo subito dopo, tra le altre cose parleremo dei dati Istat diffusi questa mattina a proposito della fiducia di consumatori ed imprese, ci collegheremo con la capitale del Kurdistan turco per capire anche come si vive questa fase e questo periodo dove da una parte c'è appunto il problema della Siria e dall'altra le elezioni in Turchia che si avvicinano. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: Marino resiste, il sindaco di Roma sarebbe intenzionato a non dimettersi, è in corso la riunione della giunta. Notizia di pochi istanti fa, il senatore del Partito Democratico Corradino Mineo lascia il gruppo del PD e dice: sono terrorizzati dalla finanziaria e hanno limitato gli emendamenti. È stato scarcerato Tuile, il cittadino marocchino arrestato in Italia e accusato degli attentati di Tunisi. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione. Stiamo cercando di raggiungere l'avvocato, vedremo se ci riusciremo in corso di trasmissione. L'ex ministro greco Varoufakis pubblica i compensi per le conferenze, quasi tutte gratis, e 1.000 euro al minuto invece per l'intervista Che tempo che fa di Fabio Fazio. Parliamo adesso dei dati sulla fiducia dei consumatori, ai massimi da 13 anni, e delle imprese al top dal 2007, sono dati di questa mattina diffusi dall'Istat che tra l'altro si associano ad un altro paio di notizie economiche importanti. La prima è il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che ha detto che la crescita italiana nel corso di quest'anno potrebbe sfiorare l'1%, quindi al di sopra delle previsioni fatte dallo stesso Palazzo Coca, e poi la nuova asta di titoli di Stato con i bot a 6 mesi che arrivano a rendimenti negativi per la prima volta. Però soffermiamoci su questi dati sulla fiducia, lo facciamo con Mauro Politi, che è direttore centrale delle statistiche congiunturali dell'Istat. Buongiorno Politi e benvenuto. Buongiorno a voi tutti. A cosa dobbiamo questo andamento particolarmente positivo? Le chiedo sia dal lato dei settori sia dal lato dei segnali che avete ricevuto. Beh, per quanto riguarda i consumatori, questo aumento che porta l'indice, diciamo, ai massimi dal 2003, da quando è cominciato il suo calcolo, deriva da un incremento per quanto riguarda la fiducia sulla situazione economica più in generale, aumento anche per quanto riguarda la situazione personale, ma in misura minore, e anche per quanto riguarda sia la situazione corrente del consumatore, quindi della famiglia, e quella futura. Per quanto riguarda invece le imprese, gli aumenti sono derivati dal clima, dai giudizi delle imprese, in particolar modo del commercio, dei servizi e del settore manifatturiero. Mentre per quanto riguarda le imprese del settore delle costruzioni, diciamo, il clima di fiducia è in calo. È in calo quindi ancora nelle costruzioni, cioè i segnali che si continuano a ricevere da là sono ancora negativi, appunto. Sì, queste sono le opinioni, sono un'indagine qualitativa e viene chiesto diciamo, qual è il giudizio, e quindi non sono dati quantitativi, però danno la possibilità di capire qual è il sentiment sia attuale che quello futuro. La ringrazio, grazie a Mauro Politi, direttore centrale delle statistiche economiche e congiunturali per l'Istat, per averci dato un quadro dei settori. Ci colleghiamo con Alberto Negri, come già vi dicevamo nei nostri titoli, è in collegamento con noi da Diyarbakir, inviato del Sole 24 Ore, nella capitale del Kurdistan turco. Alberto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Vorrei innanzitutto da te un quadro della situazione su questa zona di confine così delicata. Qui è quasi un balcone su tutta la crisi del Medio Oriente e su quella della Turchia, perché il Kurdistan turco è certamente il centro nevralgico di una questione che non è solo quella curda, ma quella più ampia della democrazia in Turchia. Qui l'HDP, il partito curdo, è riuscito a prendere il 12-13% alle ultime elezioni e a entrare in Parlamento, privando quindi il partito di maggioranza KP di Erdogan di quella maggioranza assoluta di cui aveva goduto per 12 anni, ma qui è anche in corso una guerra, anzi sono in corso più guerre, quella del governo, dello Stato contro la guerriglia del PKK, quella dei curdi contro il califfato, perché qui a Diyarbakir il Daesh, il califfato è stato rintracciato, due basi con super armate, con addirittura un campo minato intorno alle case che sono state spugnate dalle forze speciali, quindi è la testimonianza che il califfato e gli estremisti islamici sono inseriti proprio nei punti nevralgici dei punti di crisi della Turchia. Quindi questa guerra è una guerra più in generale che poi quella per la Siria dei curdi del Rojava, e che sono collegati peraltro anche ai curdi turchi. Quindi ci troviamo di fronte all'epicentro, a uno degli epicentri perlomeno della crisi medio orientale e di quella che è la crisi della Turchia, un paese che stenta a decollare, la cui democrazia stenta a decollare, perché Erdogan in tutti i modi cerca di non perdere il potere, anzi di rafforzarlo, di farlo diventare assoluto. Certo, Alberto, ti interrompo solo un attimo per dire appunto che ci siamo collegati, gli ascoltatori che erano in ascolto nella prima parte della trasmissione l'hanno sentito, ci siamo collegati con la piazza di Istanbul, dove sono in questo momento in corso proteste dopo il raid della polizia in una TV di opposizione a Erdogan, e quindi i segnali da questo punto di vista sono molto forti. Vorrei capire da te che cosa ti attendi per queste elezioni del primo novembre? Beh, io mi attendo e spero che non ci siano fatti di sangue ulteriori, perché io oggi ho fatto un giro negli ospedali e lì sono ricoverati dei giovani feriti. Chi sono questi giovani? Sono i giovani curdi che fanno opposizione al regime, non solo quelli del PKK e della guerriglia armata che sta in montagna, ma quelli delle città intorno, dei quartieri di Diyarbakir, della città di Silvan, di Bingöl, di Cizre, e sono tutte zone dove ci sono scontri continui, dove c'è una forte presenza militare e della polizia che addirittura sembra che stia usando uomini barbuti che sono identificati generalmente come delle sorte di estremisti islamici pure loro, però utilizzati dalle forze di sicurezza turche. Beh, insomma, siamo di fronte a quella che si chiama un po' la guerra sporca, che ne abbiamo viste tante nell'Algeria per esempio degli anni 90, però in questo caso di fronte a un paese come la Turchia, con cui bisognerebbe riaprire, secondo la signora Merkel, secondo il cancelliere Merkel, il negoziato per l'ingresso in Europa, a questo punto ci sono molti dubbi, e questi dubbi li hanno per esempio gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno forte divergenza con la Turchia di Erdogan sulla politica in Siria, sul rispetto ai curdi e anche sulla questione della libertà di stampa di cui parlavate prima. Ti ringrazio, grazie ad Alberto Negri per questo racconto da Diyarbakir, appunto, capitale del Kurdistan turco, zona di confine, come avete sentito, molto importante, e zona di confine importante anche per le crisi mediorientali, tra cui la crisi in Siria che tanti profughi sta portando in Europa, Europa nella quale vengono annunciati nuovi muri. Le autorità austriache evitano accuratamente di chiamarlo muro, ma la recinzione che l'Austria ha annunciato che realizzerà alla frontiera con la Slovenia farà sicuramente discutere. L'annuncio è arrivato stamattina dal ministro degli interni austriaco Johanna Mikl-Leitner, la quale ha specificato che il paese non vuole chiudere le frontiere, ma, ha detto, poiché nelle ultime settimane alcuni gruppi di migranti si sono mostrati più aggressivi ed emotivi, occorre adottare tutte le precauzioni e assicurare un ingresso ordinato e controllato in Austria. Intanto è polemica sui ricollocamenti dei migranti, che in 40.000 dovrebbero partire dall'Italia in 2 anni. Di questi, scriveva questa mattina il Corriere della Sera, ne sono partiti in un mese solo 90. Abbiamo altre centinaia pronti a partire. L'importante è stato cominciare, ha ribattuto il ministro dell'Interno Angelino Alfano su Canale 5. I prossimi 50, ha detto, andranno in Spagna. Non accetteremo prese in giro, ha continuato il ministro, ricordando poi che se non ci sarà ricollocamento non ci saranno neppure gli hotspot. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati tra un attimo, e anche se questo andamento dell'asta dei titoli di Stato a 6 mesi con rendimenti negativi ha avuto anche un qualche impatto sulla borsa. Nella seconda parte della trasmissione andremo di nuovo a sentire che cosa sta succedendo in Campidoglio, dove è in corso la giunta e dove Marino potrebbe annunciare che non si dimette, e poi l'apertura del processo Emilia, quello sull''Ndrangheta, appunto, in Emilia Romagna. Tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: Marino resiste, il sindaco di Roma ha intenzionato non dimettersi, è in corso la riunione della giunta, tra poco vi aggiorneremo. Il senatore Corradino Mineo lascia il gruppo del PD, sono terrorizzati dalla finanziaria, dice evidentemente della maggioranza del Partito Democratico, e hanno limitato gli emendamenti. Continua a salire la fiducia dei consumatori, ai massimi dal 2003, delle imprese al top dal 2007, nuova asta di titoli di Stato, i bot a 6 mesi con rendimenti negativi. Per la Volkswagen, conti in rosso per la prima volta da 15 anni, a pesare gli accantonamenti per fronteggiare lo scandalo emissioni. È stato scarcerato Twil, il cittadino marocchino arrestato in Italia accusato degli attentati di Tunisi, la procura chiede l'archiviazione. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Vi dicevo poco fa che stavamo cercando di raggiungere l'avvocato di Twil, il ragazzo marocchino accusato di aver partecipato alle stragi del Museo del Bardo di Tunisi e arrestato in Italia, che oggi, per il quale oggi è stata negata l'estradizione, è stato scarcerato e la procura ha chiesto l'archiviazione, e non siamo riusciti a raggiungerla, non può intervenire in diretta. Ci ha scritto dicendo che si dice soddisfatta e felice, che la fiducia che Twil ha sempre avuto nei confronti dell'autorità italiana è stata ben riposta. La risposta dell'avvocato Silvia Fiorentino. Torniamo in Campidoglio, Andrea Viali, eccoci, ci sono novità? Sì, rieccoci Simone. No, non trapelano indiscrezioni dal Palazzo Senatorio, dove è in corso questa riunione della Giunta che potrebbe dare il via oggi alla pedonalizzazione integrale dei fori imperiali, un progetto sappiamo molto caro a Ignazio Marino. È una riunione importante, densa di decisioni, si è limitato a dire stamattina il primo cittadino arrivando in Campidoglio, ma naturalmente la decisione più attesa è quella che Marino prenderà sulle sue dimissioni, perché secondo indiscrezioni sarebbe intenzionato a ritirarle per aprire una crisi politica e per dire la sua davanti al Consiglio Comunale. Sappiamo però che il suo partito, il PD, considera comunque conclusa l'esperienza di Marino, e in caso di un suo ripensamento i consiglieri comunali democratici sarebbero pronti a dimettersi in blocco oppure addirittura addirittura a presentare una mozione di sfiducia, e quindi, visti i numeri proprio in Campidoglio, al momento sembra molto difficile che il sindaco possa riuscire a trovare una nuova maggioranza disposta a sostenerlo. Simone. Grazie, grazie anche per questo aggiornamento al nostro Andrea Viali. Adesso ci spostiamo a parlare di un processo di grandi dimensioni. Oltre 200 imputati, l'udienza preliminare nell'aula bunker di Bologna nella vicenda Emilia, che riguarda l'infiltrazione dell''Ndrangheta appunto in Emilia Romagna. Abbiamo in linea con noi Giovanni Tizian, che è un collega giornalista, tra l'altro sotto scorta per delle minacce ricevute da un boss in un'inchiesta che aveva fatto sui giochi. Giovanni, bentornato ai nostri microfoni, ciao. Buongiorno. Misure di sicurezza strettissime hanno tenuto fuori i giornalisti, e tra questi ci sei anche tu, no? Sì, sono qui per il mio giornale, per l'Espresso, e siamo tutti, insomma, abbiamo una saletta fuori dal padiglione 19, dove è stato trasformato per l'occasione in una sorta di aula bunker, insomma, la situazione è blindatissima, imponente, diciamo, spiegamento di forze dell'ordine, e noi siamo qui in attesa. Siete là in attesa. Giovanni, che cosa rappresenta questo processo? Beh, è il maxi processo all''Ndrangheta emiliana, come l'hanno definito gli stessi inquirenti, un processo in cui si analizzerà il radicamento della mafia calabrese in Emilia Romagna, tra le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Il cuore vero di questa 'Ndrangheta emiliana è in provincia di Reggio Emilia, in particolare in un paesello, Brescello, famoso più per le vicende di Peppone e Don Camillo, che è diventato negli anni un vero feudo di 'Ndrangheta. Tanti imputati, si va dal boss, gregari, imprenditori, professionisti, e anche due politici del centrodestra. Chi sono questi due politici, ce lo ricordi? Giuseppe Pagliani, Forza Italia, Giovanni Bernini, sempre Forza Italia. E quali sono i tempi di questo processo, Giovanni? Beh, hanno fatto un calendario. Sulle udienze preliminari si arriva circa il 22 dicembre. È il processo più grande contro l''Ndrangheta mai celebrato al nord, perché, diciamo, quello di Milano infinito arrivava comunque sotto sulla centinaio di imputati, Minotauro anche, diciamo, e questo al momento è veramente imponente. L'ultima domanda che ti voglio fare è brevemente, Giovanni, rappresentano gli arresti che poi hanno portato a questo processo una vera decapitazione dell''Ndrangheta in Emilia Romagna? Beh, sicuramente una parte è stata appunto decapitata. Il problema è che quando si parla di 'Ndrangheta e di mafie tradizionali, il ricambio è quasi automatico. Di questi arrestati sono sicuramente, secondo appunto gli investigatori, altri personaggi legati a questi arrestati, che hanno già continuato e continuano a mandare avanti il clan. Oltretutto, in questo processo bisogna ricordare che c'è tutta la vicenda anche della ricostruzione post-sisma, insomma il terremoto che ha messo in ginocchio l'Emilia, e che poi è stato in parte, i lavori di ricostruzione sono stati in parte controllati dall''Ndrangheta. C'è voto di scambio, ci sono le elezioni, competizioni elettorali condizionate dai clan, ben sei ne contano gli inquirenti. E poi ci sono tanti, tanti casi di usura, estorsioni, prestiti, c'è tutto, c'è veramente tutto. Il problema è che un business del genere, appunto, viene gestito ancora da, ovviamente, i sostituti, perché come in tutte le mafie ci sono sempre, un vuoto va sempre riempito. Ti ringrazio, grazie a Giovanni Tizian, giornalista dell'Espresso, e che sta seguendo questo processo. Le sue cronache appunto le potrete leggere sul sito del settimanale e sul settimanale. Continuiamo a parlare di mafia, perché sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica oggi a Milano si celebra la giornata della virtù civile, organizzata dall'associazione Giorgio Ambrosoli, dedicata quest'anno al coraggio della verità e a Peppino Impastato, ucciso dalla mafia. Oggi pomeriggio ci sarà una lezione alla Bocconi, poi un concerto al Teatro Dal Verme, tutto nel segno del militante siciliano che attraverso una radio denunciava i boss. Siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli. è riunita la commissione edilizia. Quanti ordini del giorno sono ancora oggi al centro di ripetuti scandali come quelli denunciati da Peppino Impastato? Quante commissioni edilizie si tramutano in comitati d'affari? Dalla sua cinisi in Sicilia, la linea della Palma è da tempo salita fino al nord d'Italia, tra infiltrazioni dei clan e corruzione diffusa. Da Mafia Capitale allo scandalo Mose, dalle tangenti nella sanità in Lombardia a quelle nell'ANAS a Roma. E se la prima risposta non può che essere repressiva e normativa, è solo nella cultura l'autentica inversione di tendenza, in quel coraggio della verità, ad esempio, che dava voce alle denunce di Impastato, scelto quest'anno come simbolo della giornata della virtù civile dall'associazione Ambrosoli, perché diffondeva consapevolezza, spiega Umberto Ambrosoli, la stessa che ad esempio in Italia ancora non c'è in tema di corruzione. La costruzione di un futuro parte dall'impegno di tutti noi giorno per giorno. Antidoto per la corruzione è la trasparenza. Perché in Italia manca? Perché non abbiamo ancora deciso di fare i conti con la verità, secondo la quale la corruzione in realtà non conviene proprio a nessuno. Così negli anni si è passati dai soldi nel PUF agli scambi di favori, alle finte consulenze, tanto da far precipitare l'Italia in coda alle classifiche di Transparency International. Ora le nuove norme anticorruzione e l'autority che ha funzionato ad esempio su Expo potrebbero far risalire un po' la china al nostro paese, ma solo alle virtù civili, il potere di un'autentica inversione di tendenza. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, c'è il traffico. Mario Platero, ci ritroviamo subito dopo.